Ragionate un passo alla volta. Calcolate prima le ore di cammino giornaliere e moltiplicatele per 6 giorni. Alla fine, dividete i chilometri totali per il numero di ore ottenuto.